uno spettacolo che dava la precedenza alle canzoni, musica di qualità, conduzione garbata. Poi è successo di tutto. Siete bellissimi, siete bellissimi. Vedo che ho un po'. Era prevedibile che iniziare con Berlusconi, anche se si poteva immaginare che poi avrebbe fatto le imitazioni di altri leader, sarebbe stata per Maurizio Crozza una mossa davvero azzardata. Caccia i contestatori in sala, ma tutti negavano, fino alla spiegazione ufficiale affidata all'autore Massimo Martelli. Fuori, fuori, urlato a Maurizio Crozza, non era riferito a Maurizio Crozza come è stato pensato, ma a quei due... Dico due persone dal pubblico che all'entrata di Maurizio hanno cominciato a dire questa cosa. Il contestatore allontanato spiega a TV Blog. Mi piace che vengano a fare degli interventi in questo momento politici al Festival di Sanremo. Ma in tanti rivendicano le proteste. Tutto fuori luogo, una polemica va bene, ma limitata. Brutto, eh? Ha contestato, sì. Abbiamo urlato. Sì. Cosa gli avete urlato? Basta. Della gara come al solito si parla pochissimo. Primi sette big, prime sette canzoni scelte al volo tra le due eseguite da ogni artista. Oggi gli altri sette e i primi giovani e i dati d'ascolto. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Sanremo.